esperienze mi hanno segnato. Combattevo, urlavo contro chi mancava verso il mio ideale. Ribellione contro reazionari, sputi agrumi e fango alla corruzione dello Stato. Quando odio calò, placato da un melasso, senso del dovere, il mio grido placato. La mia mente si brutalizza, la mia anima piange, mi disprezzo, ora lamento il mio obiettivo. Strapperò il lupo dal mantello e lo sconto sarà sanguinario. Non sono più un ragazzo spartano, questa canzone odio corruzione. Finti neopolitici, sono solo dittatori. Odio Maroni, il posti berluscani, simbolo di un'Italia senza spina dorsale. Ha rotto la scuola, ha rotto il lavoro, pesta clandestini, pesta clandestini. Questa canzone odia, questa canzone odia dittatori. Non sono più ragazzo spartiano, non sono più ragazzo spartiano, non sono più ragazzo spartiano, non sono più ragazzo spartiano, non sono più ragazzo spartiano, non sono più ragazzo spartiano.